Allora, partiamo subito con il metaconcerto. Manuel, dove sei? Mi accecano un po'. Adesso, a me piace tantissimo fare il soundcheck e mettere a posto il palco così, proprio direttamente prima di iniziare a suonare. Yeah, perfetto, grazie. Benissimo, benissimo, Manuel. Dunque, intanto l'ho già detto, figata essere qui. Figata essere qui. Quello che suonerò questa sera fondamentalmente è un concerto di cui vi racconterò più nel dettaglio dopo, quando sarà il momento. Dura circa 30-35 minuti, è un pezzo unico, quindi sappiatelo. Quello che sto per suonare adesso invece ne dura molto meno. E inizialmente, quando ho iniziato questo giro di concerti, doveva essere l'eventuale bis, ma ahimè nessuno me lo chiedeva, quindi lo faccio per primo, così vi serve anche per capire più o meno che cosa arriverà dopo e decidere se, spero non andarvene, però magari se sbronzarvi duri al bar e insomma far finta che non ci sia, oppure se vi interessa. Niente, poi vi spiego meglio. Questo che vado a fare adesso tecnicamente è una cover, ma è di un mio gruppo, quindi non so esattamente se possa considerarsi una cover, e poi mi dite cosa ne pensate. Qui è un inferno di zanzare. Comunque, come i più eruditi di voi avranno certamente notato, era una specie di minuetto camuffato. E qui si va verso il discorso della musica classica, che rientrerà prepotentemente dopo, ma prima di affrontarlo volevo suonare un altro pezzo che ho nelle dita da qualche giorno. Non sono sicuro di, cioè è finito, ma non lo so se è finito. Comunque ve lo suono, così vedo anche come reagite e vedo se ha senso. Grazie. Dunque, è venuto il momento del mattone. Però ve lo racconto prima, così capite anche il senso di tutto questo. Dunque, io vivo a Ravenna. A Ravenna c'è un festival di musica classica molto, molto importante che si chiama Ravenna Festival. Lo organizza Riccardo Muti, che è, come sapete, un famosissimo direttore d'orchestra, tra l'altro pure mezzo fascio, eppure massone, e, cioè ovviamente Riccardo Muti non ha idea di chi io sia, questo è ovvio, non mi ha chiamato lui, neanche la moglie, che è la vera eminenza grigia del festival, ovviamente pure lei, de quegli altri, e, ma mi ha chiamato un loro piccolo eroe che gli organizza le cose, diciamo, più contemporanee, perché loro ovviamente Beethoven, Mozart, Chopin, e, però appunto c'è questo insider che porta, è uno che ha portato tipo Glenn Branca a Ravenna nel 72, che volevano lapidarlo. Comunque vabbè, Niente, quindi fanno una 4 giorni dedicata alla chitarra elettrica nella musica classica contemporanea, e oltre a questi mostri sacri che hanno chiamato, hanno deciso di chiamare anche 4 artisti più rock a comporre una partitura apposta per questa serata. Quindi mi telefonano, io ovviamente accetto, anche perché il cachet era troppo alto per dire di no. Dopodiché comincio anche a pensare che cosa vado a fare io a questo festival di musica classica dove suonano questi mostri incredibili. C'è gente che ti legge un John Coltrane al contrario e vabbè. Quindi comincio a pensare subito, escludiamo di mettermi, di confrontarmi con loro a livello tecnico, perché ovviamente nessuno può confrontarsi con loro a livello tecnico, quindi... E però non potevo neanche confrontarmi su quello che è, anche se questa sera non ve lo farò vedere, però quella che è un po' la mia specialità, cioè il rumore, il noise, il casino gratuito, ecco. E su quello sono molto bravo. Siamo cresciuti un po', insomma, tutti a pane e Sony Cute, credo, insomma, almeno quelli della mia generazione. E quindi mi sarebbe venuto molto bene fare del casino. Il problema è che non so se voi frequentate la musica contemporanea accademica, però la classica contemporanea, soprattutto nella chitarra elettrica, oggi come oggi, è fondamentalmente noise. Cioè la stessa cosa che facciamo noi quando suoniamo a caso, però questi hanno lo spartito, leggono. E quindi, oltre a chiedersi noi, comuni mortali, che cosa ci sarà scritto in questo partito, visto che c'è anche il fatto che hanno dei suoni molto più brutti dei nostri. Però hanno, come dire, laurea accademica, quindi possono farlo, e io non potevo farlo. Anche perché questi facevano 1 ora e mezza di noise, facevano 1 ora e mezza di noise anch'io, la gente si sparava. E quindi ho pensato, che cosa so fare veramente io? E quello che tutti mi dicono che so fare con la chitarra è raccontare. Sarà che ho fatto il classico invece del conservatorio, però diciamo questa cosa mi viene. E quindi, visto che devo confrontarmi con questi mostri, che cosa vado a raccontare? Tutti mi hanno sempre detto che il mio chitarrismo evoca l'acqua o il deserto. Benissimo. Scegliamo l'acqua. Devo cercare di vincere, no? Non dico di vincere, ma almeno di non fare brutta figura. Quindi l'acqua. A me, come spero a tutti voi, cosa piace? Il disastro, la tragedia, la morte. Quindi, un naufragio. Ho questa idea geniale. Raccontiamo un naufragio con la chitarra. Quindi compongo questo concerto in 4 movimenti, che potremmo anche chiamare parti, ma tiriamocela un po' e chiamiamoli movimenti. E nel primo movimento va più o meno tutto bene. Cioè, se avete visto tipo Titanic... O quei film catastrofici, bene o male avete capito di cosa sto parlando. Cioè, arriva la nave, tutti contenti, si sale sulla nave, si mischiano le lingue parlate e non parlate. C'è la festa, Smaila che suona il piano bar. Però già nel secondo movimento le cose cominciano ad andare malino. Cioè, la festa continua. Il trenino, c'è Maracaibo, eccetera. Però, diciamo, in stiva qualcosa comincia ad andare storto. E ci sono le prime crepe, eccetera. Nel terzo movimento le cose cominciano ad andare veramente male, cioè la nave comincia ad affondare, e nel quarto movimento, finalmente, come in tutti i film che si rispettino, muoiono tutti e fine. Quindi, piuttosto semplice, no? Come plot. Però, appunto, messo in musica, è piaciuto, incredibilmente piaciuto, al punto che hanno registrato il concerto e l'hanno pubblicato, quelli del festival. Quindi questo è quello che vi suonerò per i prossimi 35 minuti. Vedeteci ovviamente quello che volete, se non potete anche non vederci per forza il naufragio e le crepe e Smaila, però questo è quello che la mia partitura teoricamente vuole comunicare. So che non mi chiederete il bis, quindi vi saluto già adesso, grazie. Lì se volete siete addirittura così folli da voler comprare il disco, lo trovate lì assieme ai dischi degli altri miei gruppi. Buona serata, viva Cox.

Thank you.

Grazie mille. Se volete, lì ci sono i dischi, se altrimenti ci vediamo al bar.